9 in punto, la versione di Oscar. Oh, eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino e questo Sant'Eugenio, che il 30 dicembre venerdì è la mia ultima puntata del 2011. Facciamo il bilancio dell'evento, diciamo, più significativo della vita politica e pubblica dell'Italia, e cioè di questa conferenza stampa che ieri il Presidente del Consiglio del governo di emergenza tecnico, il professor Mario Monti, ha tenuto, aveva fatto immaginare a tutta la stampa e all'opinione pubblica italiana che nella conferenza stampa di ieri avrebbe illustrato dei provvedimenti assunti il giorno prima. Il Consiglio dei Ministri era in attesa della famosa fase 2, quella che dopo il rigore nei conti e la raffica di nuove tasse faceva prospettare le misure per sostenere il denominatore su cui si calcola il debito pubblico, cioè il PIL, con la strategia di cui più volte abbiamo tentato di illustrare i fondamenti, ma i provvedimenti ancora non ci sono. Ieri, sorpresa, una conferenza stampa in cui un Presidente del Consiglio ha parlato molto più di quanto mi aspettassi, prendendo molto tempo, con frasi con grandissima proprietà in italiano, con grafici come quando ha illustrato lo spread, e con un autocompiacimento che non mi aspettavo, devo dire la verità. E tuttavia abbiamo saputo ancora una volta solo i capitoli generali della strategia per la crescita e delle liberalizzazioni, dell'intervento sul mercato del lavoro, della necessità di sbloccare infrastrutture riallocando le risorse europee che non stavamo utilizzando e stavamo perdendo, e aprendo a delle semplificazioni radicali che urgono per soprattutto tentare di convincere più capitale privato di imprese italiane e internazionali, di banche italiane e internazionali, a investire nell'opera di infrastrutturazioni, che è uno dei gap da rimediare nel nostro paese, perché è una precondizione per lo sviluppo e il ritardo del quale abbiamo pagato e paghiamo in sovraccosti che sono energetici, di trasporto, logistici, che sono uno dei tanti numerosi capitoli, insieme a quello della giustizia, per esempio, e insieme alla scarsa legalità del nostro paese, che ostacolano il tasso di crescita nel nostro paese e che non attirano il capitale internazionale nel nostro paese. Effettivamente della conferenza stampa che dire, a me ha colpito innanzitutto l'autocompiacimento più che l'esposizione di una filosofia che conoscevamo già e che più volte abbiamo tentato di mettere al fuoco. Dovessi indicare oggi tra i commenti che prevalgono sulla grande stampa, sono commenti come quelli di sostegno ovviamente alla serietà, al distacco anche proprio personale che c'è tra la modalità con cui Silvio Berlusconi affascinava come il pifferaio di Hamelin, facendo battute e rimanendo sempre in superficie sui problemi, ma tentando soprattutto di instillare ottimismo, autocompiacimento. Senza se questo autocompiacimento del Presidente del Consiglio è di marca completamente diversa, molto intellettualistico, è fatto di grande sobrietà, è fatto di una sottile ironia britannica nel prendere in giro i giornalisti che gli fanno domande, anche le più sciocche delle quali lui accetta come se si trattasse di inviti a nozze. Ma l'autocompiacimento che mi ha colpito di più era quello del riportare con dovizia di particolari le note, gli articoli di stampa internazionale che si riferivano a se stesso, insomma, a prendere che il Süddeutsche Zeitung lo ha descritto come il genero ideale, perché si veste, parla in maniera banale, si veste non troppo con fantasia. Era così necessario? No, ma adesso non voglio criticare questo aspetto, ma è veramente quello che più mi ha colpito. E per questo dicevo, tra i tanti commenti, come quello di Mario De Aglio e di Marcello Sorgi sulla stampa, o come quello di Dario Di Vico, che trovate in prima sul Corriere della Sera, una debole luce in fondo al tunnel, e come quello del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che trovate sulla prima del Sole 24 Ore, che è dedicato al cammino che è in salita, ma possiamo farcela, dice Roberto Napoletano, anche perché non abbiamo alternativa. Ecco, devo dire che tra tutti io per un giorno scelgo con una punta di delusione, una punta di educata delusione, pur rimanendo un sostenitore del governo, scelgo invece il commento che ha scritto Luca Teresi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano fa un titolo oggi che è "Un Monti solo al comando", e la spiegazione di questo titolo di apertura del quotidiano diretto da Antonio Padellaro è che il Presidente del Consiglio si è presentato come il salvatore dell'Italia affessata da Berlusconi. Virgolette, "Il Quirinale mi chiamò il giorno dello spread ai massimi", chiuse virgolette, "ora promette la crescita ai sondaggi, sono ancora con lui. Per questo dovrebbe avere più coraggio e non lo stanare la casta". Questa è la spiegazione del titolo di prima pagina del Foglio, ma la tesi illustrata da Luca Telese, perdonate, dal Fatto Quotidiano, la tesi illustrata nell'editoriale, uno dei due editoriali sottostanti al titolo di apertura di Luca Teresi, "Il capo tecnico diventato un piacione", e lì trovate effettivamente spiegata questa metamorfosi del professore che scherza, fa il distaccato e il rispettoso, parla molto di sé, ma piccolo particolare, non risponde praticamente a nessuna domanda, lo fa con grande educazione, grande lunghezza di tempi, ma non c'è una sola domanda concreta alla quale sia venuta una risposta concreta. Detto questo, era necessario questo governo? Assolutamente sì. Aveva perso il titolo chi c'era prima? Assolutamente sì. Non mi ritrovo in nessuno dei toni di nostalgia infondata alimentati da parlamentari del centrodestra che parlano di governo truffa, eccetera eccetera. Il problema di questo governo è andare avanti su questa strada, e per capire meglio che cosa ci aspetta e che impressioni avere di questo di questa compagine del Presidente del Consiglio, delle misure che ci attendono a inizio anno, mercato del lavoro, ripeto, liberalizzazioni, infrastrutture, sud, i nostri ospiti, sentiamo come la pensano. A chi abbiamo chiesto di darci una mano in questa riflessione? A Gianmaria Grospietro, che è economista e direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali all'Università Luiss di Roma ed è presidente di Federtrasporto. Buongiorno e grazie a Gianmaria Grospietro. Buongiorno. E in questa prima parte è con noi il corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung in Italia, che ieri ha condiviso, tra l'altro, il fatto di stare sul palco al fianco del Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa, perché è anche presidente della stampa estera in Italia. È con noi Tobias Piller. Buongiorno Piller. Buongiorno. Io comincerei proprio con lei, perché secondo me ha ragione. Lei ha fatto un'osservazione, una domanda osservazione a proposito della competitività che non era risuonata nella conferenza stampa e nelle parole del professor Monti. E insomma, il succo del ragionamento è che probabilmente dovremmo spiegare un pochino meglio agli italiani che le ragioni per cui abbiamo perso la competitività sono ragioni che si riducono a responsabilità nostre, non alla cattiva volontà dei tedeschi, per così dire, e soprattutto che anche nel bilancio reciproco commerciale tra Germania e il resto dell'Europa gli argomenti per i quali sono i cattivi tedeschi, perché esportano troppo e incamerano quindi troppo vantaggio unilaterale dall'euro, è una cosa che tutto sommato, se uno la guarda oggettivamente, è una tesi che non sta in piedi. Allora, ci vuole spiegare un pochino perché queste due tesi sono due tesi importanti, perché gli italiani si rendano conto di ciò che resta da fare al di là del mettere rigore nei conti pubblici? Partiamo da quest'idea che viene espresso spesso, che se c'è crisi in Italia se andiamo verso una recessione, la Germania dovrebbe spendere di più per tirare l'Italia e anche gli altri europei fuori dalle secche. Ma se la Germania spende di più, e voglio mettere tra parentesi che veramente l'anno scorso l'importazione tedesca è andato avanti si è aumentato di 11% più dell'esportazione, e ancora oggi la Germania vive su un altro pianeta, non si sente la parola crisi, si sente la parola che stiamo ancora andando bene. questo tra parentesi. Comunque, se la Germania dovesse spendere ancora di più per voler fare qualcosa, questi effetti non arriverebbero in Italia, perché l'Italia non è competitiva. L'Italia negli ultimi 20 anni ha perso più o meno metà della quota di mercato tra quei tedeschi che viaggiano all'estero, così non viaggiano più tanto in Italia come una volta, e ha perso anche tra quei tedeschi che comprano beni importati, così una volta per 100 euro che i tedeschi spendevano in beni importati, una volta 9 euro andavano in Italia. Era proprio dopo la unificazione tedesca, quando la Germania importava molto, perché c'era molta fame di prodotti nuovi dai fratelli dell'est. E adesso da 100 euro dei tedeschi spesi all'estero, solo 5 arrivano in Italia. Così l'Italia sul mercato tedesco ha perso metà della quota di mercato. E non è solo in Germania così, è anche così in Italia stessa. Basta girare e vedere sulle strade, certamente 10 anni fa c'erano più macchine italiane e macchine prodotte in Italia, non solo in, non so, Polonia o America, anche se hanno poi la marca italiana. In questo senso l'Italia deve essere più competitiva, allora sta meglio all'economia italiana, ma anche così potrebbe approfittare di più delle congiunture buone anche in altri posti. Secondo pensiero è quello, l'Italia guarda molto il proprio ombelico, i media stanno descrivendo le chiacchiere dei politici tra loro, ma in tutta la estensione ci sono tanti litigi su piccoli dettagli, ma si guarda poco questi fatti sulla competitività. Appena l'Italia guarda su queste cose, su quanto è competitiva, quanto ci vuole per battere, non so, i tedeschi sul mercato francese o sul mercato brasiliano, quali sono gli ingredienti per fare quello, l'Italia anche avrà così un pensiero strategico su come riformarsi. E questo pensiero strategico al momento certamente scarseggia, perché tutti parlano più dei privilegi di casta e di altre cose. E faccio annotare comunque, non dicendo che tutti devono fare come la Germania, ma è una delle cose che io vedo come una differenza tra Italia e Germania, che in Germania, da quando si è cominciato con le riforme, i tedeschi hanno proprio messo come prima priorità per tutto la competitività della Germania di fronte all'estero, proprio dicendo non vogliamo scendere sui livelli della Cina e sui livelli di salari della Cina e così via, dobbiamo allora essere competitivi e dobbiamo ristrutturare la nostra economia per avere salvi le nostre quote di mercato. In quel senso, anche se ci sono stati così delle sacrifici anche sensibili, ricordo un esempio che tutti i dipendenti pubblici hanno perso la 13ª, pur dovendo lavorare di più, non si è aumentato per vari anni le pensioni per nessuno, ma comunque si è ritenuto a salari alti, un'alta occupazione, e questo si è salvato proprio perché dal sindacalista fino al dipendente della pubblica amministrazione fino all'economia, tutti sapevano, tutti sanno che bisogna essere competitivi. Io su queste parole che vedo immediatamente dai nostri ascoltatori, alcuni di quelli che mandano gli sms al 349-238-6666, vengono recepite un po' male, perché si dice ma con quale durezza il giornalista tedesco ci dice che cosa dobbiamo fare, invece sono integralmente d'accordo con Tobias Piller. Tanto è vero che la mia personalissima opinione nel ribadire il sostegno a questo governo necessario di emergenza è che La tanta enfasi posta nella correzione dei conti pubblici per azzerare il deficit al 2013, e che, tanto per essere chiari, con la recessione che si prospetta e che già vediamo nei primi due trimestri quanto a lungo può andare lo sguardo dell'economista nel fare le previsioni oggi, se fosse consolidata anche nei successivi due trimestri sarebbe molto più severa delle previsioni, quindi comporterebbe ulteriori giri di vite per centrare l'obiettivo del deficit azzerato al 2013 e di un avanzo primario che diventa di 5 punti di PIL ogni anno. Ecco, al di là dell'enfasi che c'è su tutto questo, non vedo altrettanta enfasi invece esattamente sulla produttività e sulla competitività. D'accordo, c'è la fase 2, ci ha spiegato ieri il Presidente del Consiglio che si sta studiando come mettere mano al mercato del lavoro, come liberare le risorse per le infrastrutture, le liberalizzazioni, le professioni, eccetera. Però il problema è che, per essere chiari, la produttività, per arrivare agli italiani alla sua vera importanza, comporta anche un tono e messaggi chiari. Si fa più produttività, tanto per cominciare, con tutti coloro che lavorano oggi, non hanno perso lavoro, devono lavorare di più. Per essere chiaro, cioè, le cose impopolari non vanno dette solo sulla finanza pubblica, vanno dette nell'economia reale, perché lavorare di più e lavorare di meglio si fa con la liberalizzazione e l'apertura al mercato, ma anche di più nei momenti difficili. Il di più è una delle maniere in cui si recupera produttività. Ricordo sempre a tutti che i grandi contratti di produttività con cui grandi aziende tedesche all'inizio degli 2000, di fronte a una produttività che era scesa, si trovarono a fare ai propri dipendenti, al sindacato, una proposta chiara dicendo: delocalizziamo e abbattiamo la base occupazionale, oppure, cari nostri dipendenti, facciamo un grande patto per alzare la produttività, difendere la base occupazionale attuale, quando le cose andranno meglio torneremo a fare nuovi assunti e soprattutto vi alzeremo anche i salari. La risposta fu sì in Germania, e si arrivò anche a lavorare l'equivalente di una settimana in più a parità di salario in alcuni grandi gruppi tedeschi, cioè cose che in Italia al solo proporle ti prendono per un pericoloso nazista, per così dire. Ecco, però la produttività si fa nel medio-lungo periodo agendo sulla redditività del capitale finanziario, sulle infrastrutture di trasporto, su quelle energetiche e così via. Nel breve bisogna lavorare con quello che c'è, e una componente della più produttività, della maggiore produttività, e anche lavorare di più, abolire le festività, abolire i ponti, capite? Tutte cose che poi agli italiani ho la vaga impressione che, a non dirgliele con una certa durezza, considerino chi le dice come sottoscritto in piccolo, che conta niente, o come Tobias Pieler, l'amico della Frankfurter Allgemeine, che ci ricorda quanto perdiamo sul turismo, eccetera eccetera. Quindi anche se i tedeschi spendessero di più, come ieri diceva il professor Gustavo Piga, perché il riferimento era anche a quello che ieri Gustavo Piga diceva qua, eppure se anche facessero questo i tedeschi, noi non riusciremo certo a incamerare un grande vantaggio, proprio perché siamo meno competitivi. Quindi dobbiamo lavorare meglio e lavorare di più. Allora, grazie a Tobias Pieler. Al professore Gianmaria Grospietro invece tenterei di chiedere di illuminarci un secondo su quali sono le sue aspettative esattamente sull'aspetto invece di crescita di medio e lungo periodo. Quali sono a suo giudizio le leve dalle quali si aspetta di più che possono essere mosse dalla politica? Ieri il professor Piga ci diceva: ma non fate troppo discorsi che ripongano speranze sull'output potenziale, quella è una questione di medio e lungo periodo, sappiamo cosa bisognerebbe fare, ma nel nostro paese sono tutte cose che rimbalzano. Il problema di fronte alla recessione, ci diceva Gustavo Piga, è il sostegno della domanda congiunturale, cioè gli interventi che hanno immediatamente effetto. E lui ci diceva su questo: la mia delusione sul governo è che il governo dovrebbe fare più spesa pubblica, non meno spesa pubblica. In questo dilemma lei, Grospietro, dove si situa? Ma io credo che non si debba dare troppa importanza al ruolo della mano pubblica in questa fase. Qualunque manovra che sia effettuata attraverso la finanza pubblica urta contro degli ostacoli invalicabili. Noi abbiamo un problema essenziale, che è quello che ha portato il professor Monti alla presidenza del Consiglio, che è quello appunto della finanza pubblica e del debito sovrano. Questo problema però non si può risolvere, a mio modo di vedere, semplicemente adoperando delle leve di finanza pubblica, perché si finisce in un circolo vizioso dal quale non c'è uscita. e cioè cercare di risanare la finanza pubblica all'interno di questo circolo significa deprimere ulteriormente l'economia e quindi aggravare le condizioni attraverso le quali si potrebbe tentare di ripagare il debito. L'uscita non può che essere attraverso l'economia reale, e cioè io mi ritrovo molto in quello che Tobias Spiller diceva e mi fa piacere che anche lei Giannino sia d'accordo. Noi dovremmo utilizzare l'esempio tedesco e seguire la stessa strada, anche perché in Italia noi abbiamo una grande quantità di imprese che su quel percorso sanno camminare. Noi abbiamo avuto nella prima metà del 2011 una crescita delle esportazioni superiore addirittura a quella tedesca, che è stata però trainata essenzialmente dalle imprese medie e piccole, le imprese che operano in settori di specializzazione. Sarebbe un lungo discorso da fare sul perché l'Italia è specializzata in questi settori. Lo semplifico moltissimo dicendo: in Italia ci sono delle condizioni tali per cui è molto difficile rendere competitive le produzioni di massa, e quindi i nostri imprenditori, i nostri tecnici, che sono di primissimo livello, si sono lanciati e hanno sviluppato soprattutto le produzioni che non possono essere fatte in condizioni di massa e quindi nelle quali è possibile rendere competitivo anche uno stabilimento italiano. Allora, il punto è, per far vivere bene 60 milioni di italiani, che cosa bisogna fare per aiutare questo tipo di industria? E questa è la prima domanda. E la seconda domanda è: ma è sufficiente questo tipo di industria per far vivere bene 60 milioni di italiani? Io comincerei da questa seconda domanda. Io credo che 60 milioni di italiani, che sono meno dell'1% della popolazione mondiale, potrebbero anche vivere bene di produzioni di specializzazione. Però non è possibile per un paese che vuole stare al vertice dei livelli mondiali per quanto riguarda il tenore di vita, e noi abbiamo il diritto di cercare di occupare questa posizione, non è possibile non avere grandi imprese. Guardiamo quello che fanno paesi che da più di un secolo sono abituati a essere al vertice essendo piccoli: la Svizzera, l'Olanda, la Svezia. Tutti questi paesi hanno grandi imprese, perché pur avendo produzioni di specializzazione anch'essi, non è possibile stare al vertice senza avere organizzazioni che sono in grado di penetrare nei mercati lontani, che sono in grado di fare grandi investimenti nella ricerca, che possono guidare lo sviluppo delle nuove tecnologie. Allora, questa è una delle priorità, cioè rendere possibile anche in Italia la competitività di grandi volumi di produzione. L'altra priorità, a mio avviso, sempre parlando di economia reale, consiste nel permettere a queste attività produttive di avere una maggiore accumulazione. E qui il problema grande che si apre, sul quale credo che noi tutti dovremmo sollecitare il governo a essere più coraggioso, è quello della riduzione dell'impronta pubblica sull'economia. In Italia, rispetto ad altri paesi, una quota troppo grande del prodotto lordo, cioè del reddito che viene prodotto da chi produce, viene sottratto dalla mano pubblica e redistribuito con criteri che non sono quelli dell'efficienza e della produttività. Questa è una trappola mortale per la crescita dell'economia. Noi dovremmo guardare la Germania che cosa fa in questo campo, ma anche gli altri paesi che ho citato, la Svizzera, l'Olanda, la stessa Svezia, la Danimarca, perché sottrarre con la mano pubblica, non solo attraverso le imposte, ma attraverso tutte le attività che sono controllate dalla mano pubblica, per esempio le imprese municipalizzate o le imprese a proprietà pubblica, significa restringere sempre più quella quota dell'economia che produce reddito a vantaggio di tutti. E qui l'ultima cosa che vorrei dire è che negli scorsi decenni tutti i governi si sono dimostrati allineati su un percorso che consiste nell'aumentare la spesa pubblica, nell'aumentare il prelievo, salvo qualche eccezione che andrebbe sottolineata, virtuosa, ma nella sostanza si è sempre proceduto ad aumentare la spesa pubblica, soprattutto nei periodi di crisi. Nei periodi di crisi ovviamente le manovre di emergenza consistono sempre nell'aumentare il prelievo. Anche questa manovra che è stata presentata è fatta essenzialmente di aumento di imposte e di tagli che sono in gran parte apparenti, nel senso che si tagliano ritrasferimenti alle persone come i pensionati, e quindi non si riduce l'impronta pubblica sull'economia, o addirittura sono tagli apparenti, nel senso che si tagliano i trasferimenti a enti locali, i quali poi provvederanno localmente con addizionale. Esatto. Io devo dire che anche questa seconda parte con il professor Grospietro, che come sentite religiosamente non ho interrotto, è integralmente, diciamo così, pensiero che condivido. C'è un filmato che gira da parecchi mesi in internet, in cui ricostruisco la propensione pro die per giorno al debito pubblico dei diversi governi della Seconda Repubblica, dopo aver fatto la stima sul totale del debito pubblico attuale, del debito consegnatoci dalla Prima Repubblica, e sorpresa, il debito consegnatoci dalla Prima Repubblica è significativamente molto più basso di quello che i politici della Seconda tendono a dire, la ricostruzione dalle serie storiche Banca d'Italia del debito pubblico e della propensione di ogni governo ogni giorno ad aggiungere il debito pubblico, che vede in cima alla graduatoria il primo governo Berlusconi 94 e l'ultimo, per essere chiari, come i governi che hanno il record del debito aggiuntivo, che mi tocca tecnicamente dire magari è acceso da chi è venuto prima e tu lo devi semplicemente poi piazzare sui mercati. Detto questo, siccome lo sai, se è questo, è che la responsabilità politica di chi ti ha preceduto è stata quella di accendere il debito pubblico che a te tocca poi piazzare, devi a maggior ragione però contrastare la cosa, non dare la colpa all'altro e mettercene anche del tuo. Ecco, però tutto questo prova inconfutabilmente quello che ha detto il professor Grospietro, e la Germania è scesa di più di 6 punti di PIL in equilibrio fiscale, di minori spese pubbliche e di minori tasse negli anni in cui ha riformato il welfare con i pacchetti Hartz sotto il governo Schröder socialdemocratico, poi con un governo di grande coalizione e politiche che sono state continuate dal governo CDU-CSU-FDP che è al potere negli anni successivi, e in quegli anni riformando il welfare e facendo le riforme di produttività con i contratti di produttività nelle grandi aziende, la Germania è riuscita a scendere di 6 punti di minor spesa pubblica e di minore pressione fiscale restituita a imprese e cittadini, cosa che in Italia farebbe apparire chi si candidasse a farla, se un Oscar Giannino dicesse mi presento alle elezioni proponendo di abbattere di 7 punti pressione fiscale e spesa pubblica, tutti direbbero che è un povero matto. Perché è un povero matto se un paese come la Germania, che non è un paese senza welfare, non è un paese di darwinismo sociale e non è un paese a bassa produttività, se lo hanno fatto loro? Perché, pur senza credere di dover inventare nulla da una parte, ma neanche copiare dall'altra, perché è davvero così considerato pazzottico qualcuno che in Italia volesse fare la stessa cosa? Perché siete tutti così convinti in ascolto davvero che la mamma Stato è la mamma che è provvidenzialmente usa a dare una risposta ai vostri problemi, invece di capire che essa è il problema? Non con tutte le logiche pubbliche, lungi da me pensare che non bisogna avere un welfare concentrato su chi ha più bisogno invece che sugli insider ipertutelati, come capita da noi, ma il problema è che essa è oggi organizzata in Italia in maniera tale da, per così dire, con la spesa corrente che abbiamo aggiunto al posto dei 7 punti di minori interessi che l'euro ci ha garantito con i bassi tassi, quella spesa corrente, se uno va a vedere dove è andata non a coprire chi era scoperto nel welfare e nei diritti sociali, è andata semplicemente ad accrescere la soddisfazione di bisogni delle macchine politico-amministrative che sono troppo tra i piedi pervasivamente nel nostro paese. Uno, due, a impinguare pezzi di impresa che a nicchie belle sempre più pesanti preferiscono stare a patti con prezzi tutelati, regole amministrative tutelate e garantite dal politico compiacente invece che andare sul mercato. In queste due cose qua vanno la spesa corrente, che deprimono infatti la produttività, la competitività, la crescita complessiva del paese. Grazie anche al professor Grospietro, e adesso andiamo in pubblicità perché torniamo con una proposta invece che è stata avanzata ieri sulle pagine pagina del Corriere della Sera e una riflessione, perché oggi sul Corriere della Sera, leggetelo perché torna in prima pagina Giulio Tremonti, sorpresa, non la pensa affatto come coloro che nel centrodestra continuano a dire Monti no, si levi di torno al più presto perché il bipolarismo deve al più presto riprendere le redini del paese. Ed ecco che tornano Dors in sottofondo. Vi dicevo di questo articolo di Giulio Tremonti, è un articolo a sorpresa, come a sorpresa è stato il suo ritorno nell'intervista due domeniche fa a Lucia Annunziata, perché la tesi centrale di questo articolo, sollecitato da un articolo di Piero Stellino e uno di Ernesto Galli della Loggia, è in sintesi che viviamo in un tempo rischioso perché la finanza salvata dai soldi pubblici ora si è rivolta contro gli stati, ma proprio perché il tempo è rischioso dobbiamo essere capaci di darci una forma politica, una forma istituzionale adeguata a questo rischio. Dice Giulio Tremonti, dopo aver ricostruito la lunga storia del debito pubblico che unisce gli italiani nell'accenderlo, e quindi dice Giulio Tremonti deve vederli uniti anche nell'onorare la scadenza. Io sono d'accordo solo fino a un certo punto, perché è la politica che ha deciso il debito pubblico, non gli italiani. Non credo affatto che il più del debito sia stato acceso per sostenere le condizioni di vita degli italiani. Credo invece, come ci insegna Public Choice e Buchanan, che le minoranze pro tempore che amministrano lo Stato non siano l'interesse pubblico, siano l'interesse di quella minoranza. E chi la pensa come me e si riconosce nella scuola di Public Choice ha il compito di ricordarvi che dovete diffidare di chi pro tempore esercita la maggioranza politica, nel rispetto però delle istituzioni e della politica. Noi abbiamo smarrito il primo punto di vista e poi siamo anticasta e antipolitica e antistituzioni, e sono due errori da cui bisogna uscire. Dopo aver fatto questa lunga storia, Giulio Tremonti conclude che, attenzione, il bipolarismo fu concepito per una vita ordinaria del paese, come se non fosse alle prese invece con questa crisi terribile. Questa crisi terribile postula la necessità di un nuovo compromesso politico e istituzionale. Il bipolarismo non è quindi per Giulio Tremonti la trincea da difendere. Questo è molto interessante per il futuro politico, credo, rispetto a quelli del PDL che sono rimasti in trincea. Fa una serie di esempi su come bisogna scrivere nuove regole tra giovani e vecchi, cioè nell'intergenerazionale. Vedrete che tornerà sulla sua proposta della doppia scheda ai giovani alle elezioni, sarà fatta apposta come provocazione, però vedrete che Giulio Tremonti ci riserverà cose di questo genere, proposte di delegificazioni. Il primo scambio è tra meno unità e più federalismo, quindi si conferma che Giulio Tremonti avrà un'attenzione quantomeno per la Lega molto forte. Ma come vedete, questo è un altro criterio da tenere presente in questo fine anno, di un futuro politico un po' diverso da quello che abbiamo avuto alle spalle. Tra le proposte che in questi giorni sono state avanzate e che propongono appunto una discontinuità per dare risposte da una parte al problema del debito pubblico e per non farle solo con le strette fiscali che uccidono il paese, ce n'è una che due giorni fa è stata scritta sul Corriere della Sera da Paolo Cirino Pomicino. Paolo Cirino Pomicino, so perfettamente cosa molti penseranno appena lo riproponiamo ai microfoni nella mia trasmissione come negli altri, e invece queste due proposte di Paolo Cirino Pomicino, come tante altre di quelle che Paolo Cirino Pomicino ha continuato ad avanzare, perché è un inguaribile ammalato di politica e di rispetto della politica e delle istituzioni, e in questo io l'ho molto criticato quando ero giovane, non posso che riconoscere che ce ne fossero di quelli che, lo so che gli ascoltatori subito dicono, ognuno ha i suoi punti di vista, io difendo questo punto di vista, ma soprattutto chiedo a Paolo Cino Pomicino, che ringrazio per essere qua, di ricordarci quali sono queste due proposte per rilanciare l'economia in due mosse: contributo volontario e vendita immobili. Allora, buongiorno e grazie a Paolo Cino. Buongiorno e grazie a voi per avermi chiamato. No, figurati. Allora, queste due proposte. Due cose molto semplici. Sotto il profilo della crescita, credo che sia fuor d'opera, che non la faremo mai con la liberalizzazione dei tassisti o delle farmacie, che pure servono entro certi limiti. Il vero problema, secondo la vecchia cultura cattolica, è che senza soldi non si cantano messe. Ma soldi non ce ne sono, lo ha detto anche Monti l'altro giorno. Allora io non mi rendo conto di come si possa pensare di poter crescere, considerando che in questi 20 anni l'unica spesa che si è ridotto è quella degli investimenti pubblici e degli investimenti privati. Detto questo, la proposta è molto semplice, con uno slogan: bisogna fare una grande alleanza con la ricchezza nazionale, spiegando alla ricchezza nazionale e ai possessori della ricchezza nazionale che salvando il paese la stessa ricchezza si salva. Difendere il paese significa difendere la ricchezza. Qual è la proposta? Un contributo volontario che va da 30.000 euro a 3 milioni a secondo del reddito e del fatturato, se sono società o persone fisiche, e il premio annesso, diciamo premio per capirci, è che per 3 anni non avranno accertamenti fiscali ad una condizione, che il loro reddito e il loro fatturato cresceranno in ragione d'anno di almeno il 2%. Se crescessero oltre il 3% si può avere anche un tipo di detrazione. Questo tipo di ragionamento, secondo calcoli, sarebbe molto difficile a spiegare, ma credetemi, sulla storia fiscale degli italiani abbiamo indizi molto precisi. Noi avremmo da un minimo di 120 miliardi di euro ad un massimo di 250-280 miliardi di euro. Si dice è un condono, non è vero, è un concordato preventivo. Io chiedo alla ricchezza nazionale di darmi un contributo volontariamente e a chi lo dà gli do la certezza che per 2 anni, se aumenta comunque il suo reddito, non avrà accertamenti fiscali, e questo consentirà all'Agenzia delle Entrate di andare a scovare i grandi evasori totali, di andare a scovare altri, di concentrare l'attenzione sull'altra parte dei contribuenti. Nessun condono è previsto e consente, a mio giudizio, per le reazioni che ho avuto, per le mail che ho ricevuto, consentirebbe di mettere sul piatto la riduzione del debito pubblico in maniera significativa di 8-10 punti. Cioè, in sintesi, i tanti Carlo De Benedetti che ci hanno detto metteteci la patrimoniale, noi ricchi che siamo disponibili per abbattere il debito pubblico, eccetera, prendiamoli in parola, non gliela mettiamo obbligatoria, ma gli diamo la possibilità di fare un grande patto volontario per chi ha, diciamo, per quel 10% di italiani che hanno in mano il 45% della ricchezza nazionale, prendiamoli in parola, facciamo un meccanismo volontario premiale nel senso che a quel punto non solo senza accertamenti ma con emersione che continua negli anni successivi. Certo, le cifre sono tali che a me fanno grattare la testa, io non so se davvero ci sarebbe questa adesione di massa per importi così rilevanti, però questa intanto è la prima proposta volontaria, come un grande patto nazionale, i ricchi tirino fuori ed emergano. La seconda proposta invece, quella per abbattere il debito pubblico in maniera significativa, la seconda proposta è per lo startup dell'economia. Vendere 100 palazzi di 100.000 metri quadrati, cioè i ministeri e i loro uffici periferici, dalle varie agenzie del demanio, del territorio e di quant'altro, 100 palazzi da 100.000 metri quadrati in un fondo pubblico, e garantire un rendimento per ogni quota che si assume, un rendimento tra il 5 e il 6%. Noi avremmo nello spazio di 3-4 mesi, siccome c'è grande liquidità nazionale e internazionale, avremmo tranquillamente la sottoscrizione di poter realizzare almeno fra i 30 e i 35 miliardi. Sono soldi extrabilancio e sono una parte iniziale di quello spin-off immobiliare che è pure previsto nella manovra Tremonti, ma in maniera farraginosa. Io dico questa proposta perché non è che io sono ispirato dallo Spirito Santo, ma perché questa proposta, peraltro, il ministro Passera la conosce bene, perché quando ha avuto problemi in Banca Intesa di sviluppo senza volersi indebitare, altro non ha fatto che fare lo spin-off degli immobili strumentali, cioè degli immobili che servivano alla banca. Anche qui si tratterebbe di immobili in cui lo Stato, da proprietario, diventa locatario. Per evitare, e concludo, per evitare un onere della locazione che creerebbe problemi ai saldi di bilancio, io dico che per il primo triennio l'onere della locazione che lo Stato deve pagare ai sottoscrittori andrebbero sul ricavato della vendita stessa. Se noi recuperiamo 35 miliardi, 32 miliardi vanno nell'economia reale, mentre 3 sono a fronte dell'onere della locazione per i primi 3 anni. Allora, le due proposte sono chiare, io a questo punto devo salutare e ringraziare Paolo Cirino Pomicino, torneremo a commentare nelle telefonate successive, intanto adesso abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. The End, The Doors. Io, a dire la verità, propendo, a differenza di Paolo Cino Pomicino, per una mega operazione invece sul mattone di Stato, non per incassare la trentina di miliardi di cui ha parlato Cino Pomicino, ma per fare un grande fondo chiuso di 200-300 miliardi di valore proprio per l'abbattimento del debito pubblico, perché non credo che la via della patrimoniale sia la via giusta per questo. Io credo che lo Stato ha fatto coloro che hanno amministrato pro tempo lo Stato hanno fatto il debito pubblico, lo Stato ha garanzie, il debito pubblico ne risponda abbattendolo lui, non chiedendo a noi. Questa è la mia opinione di fondo. Temo che oggi, di fronte a grandi dismissioni patrimoniali immobiliari di Stato, ci sia una forte obiezione da parte delle banche, perché mettere sul mercato 200-300 miliardi di euro di valore immobiliare nei centri delle grandi città deprimerebbe i valori di libro, su cui ci sono belle piramidi di prestiti, soldi che girano per le banche, per gli intermediari e nonché per alcuni grandi gruppi immobiliari. Mi chiedo se sia una buona obiezione. Per me no, obiettivamente una correzione al ribasso del mercato immobiliare, io purtroppo, per quanto molti italiani considerino una roba che non deve mai avvenire, la considero giusta e fisiologica, e a dirvi la verità ci guadagna molto di più da un maxi abbattimento del debito pubblico fatto in questo modo. È stata fatta una domanda su questo, una delle 24 domande poste al professor Monti ieri, neanche a questa domanda ha risposto. Tenete conto che non siamo più quattro fessi come Oscar Genio a dirlo, c'è anche un bel papiello fatto da Mediobanca che è sul tavolo del governo per esattamente costituire un veicolo di mercato per dismissione di mattone di Stato, abbattimento molto consistente di quote di debito pubblico che aiuterebbero più degli avanzi primari fatti con le tasse che uccidono la crescita del nostro paese. Allora, sentiamo un po' di voi come la pensano. Cominciamo con Michele da Napoli. Prego Michele. Pronto? Sì Michele, siamo in ascolto, ci dica. Ho sentito la trasmissione e mi va di dire innanzitutto che Paolo Cucino Pomicino rimane comunque geniale, al di là se poi sono praticabili o no le proposte economiche che ha fatto. Io mi chiedo soltanto una cosa: come mai il governo Monti, che ha cercato soldi dappertutto, non ha pensato di fare, come hanno già fatto peraltro Germania e Inghilterra, e quindi fare un prelievo alla fonte dei soldi depositati nelle banche svizzere da cittadini italiani? Perché per fare il prelievo alla fonte delle banche svizzere bisognerebbe avere la sovranità svizzera, e si figuri, gli svizzeri nella loro sovranità riconoscono la tutela agli intermediari finanziari della riservatezza di chi c'ha i conti. L'Italia non è in condizione di farlo quel prelievo alla fonte, è molto semplice. Non è nelle condizioni di Germania e Inghilterra? No, perché guardi, Germania e Inghilterra non hanno fatto alcun prelievo alla fonte. Germania e Inghilterra hanno sottoscritto un accordo che non è stato seguito da nessun paese europeo, perché nel frattempo l'Europa ha detto non va bene lo schema sottoscritto dai tedeschi e dai britannici, e temo proprio, ne abbiamo già parlato in una trasmissione, di doverle aggiungere che quello schema non porterà i soldi promessi nelle tasche a tedeschi e britannici, e questa è la vera spiegazione per la quale sia il governo uscente sia quello attuale non lo sottoscrivono più quello schema lì, perché è l'Unione Europea a dire non fa parte lo schema Rubik con cui è scritto quell'accordo, è uno schema di fronte al quale anche l'Ocse dice non va bene, perché non è fatto sul mutua scambio di informazioni, tant'è che in quel caso il presupposto è che si restava anonimi, e quindi vede, glielo dico perché è una cosa tecnica, non per dire, però comunque prego, l'ho interrotto. La mia domanda era giustificata dalla disinformazione, io pensavo che l'avessero già fatto e che fosse andata a buon fine, e quindi come mai se l'hanno fatto loro non possiamo farlo noi? Invece no, ho spiegato. Purtroppo non c'è nulla da fare verso determinate su quel cose. Versante lì bisognerebbe fare schemi di cooperazione sugli scambi di informazioni, quindi non sull'anonimato, ma temo che su questo gli svizzeri e gli austriaci, e io li capisco e li difendo da questo punto di vista, perché la cooperazione, la concorrenza tra ordinamenti che hanno una diversa tutela della riservatezza dei dati è una forma di concorrenza positiva, perché induce altrimenti chi ha troppe tasse a capire che non può portarle all'asintoto, e così funziona. Serena dalla provincia di Trieste, come la pensa Serena? Prego. Serena, sono dalla provincia di Trieste ma sono napoletana, e quindi conosco molto bene Cino Pomicino perché in passato ho avuto a che fare con lui anche come giornalista. Allora voglio dire che il suo ragionamento è sempre brillante, perché è un uomo molto intelligente, però è sinceramente aberrante, perché ancora una volta sottolinea la possibilità che una classe, una parte di cittadini possa in qualche maniera per contribuire, per aiutare lo Stato, evadere da quello che a noi manca come italiani, per cui non potremo mai fare quello che fa la Germania, e cioè il rispetto di una regola. La verità è che noi siamo nella situazione in cui siamo, e tranne Radio 24 e poche altre fonti di informazioni, pochi hanno il coraggio di dire questo agli italiani, è che questo governo ci ha reso complici. Buona parte degli italiani che oggi attaccano il governo sono stati resi complici in quest'anno, perché il clientelismo, l'evasione fiscale hanno favorito naturalmente il tenere in piedi un governo che consentiva a noi cittadini di fare quello che il governo ci lasciava fare per poter fare i suoi affari in privato. Allora, se noi vogliamo affermare temi come giustamente avete detto, competitività, meritocrazia, ma come facciamo ad accettare questi principi se non ripristiniamo il concetto del rispetto delle regole, di non essere complici? Qua pensiamo che i grandi evasori siano i grandi ricchi, ma guardi che il grande evasore è il mio idraulico, il mio fisioterapista, il mio medico che mi ricatta se gli chiedo la fattura o mi chiede di più, e io che faccio? Non mi faccio curare e sto zitta. Il mio avvocato, e così via. È una massa enorme. Allora, o noi facciamo una grande operazione di autocritica, altrimenti non potremo mai con questo principio risanare l'Italia, perché noi vogliamo sederci in Europa, accettare che la nostra TAV costi 7 volte brava, quella della Francia, brava, rubare, brava. E poi pensiamo che l'Europa ci viene a pagare le nostre ruberie. Grazie, allora, Serena, no. Grazie Serena, un sano autoconsapevolezza. Duilio da Roma, proprio rapidissimo, può stare 20 secondi. Prontissimo, grazie a lei e alla signora che mi ha preceduto. La soluzione è quello che diceva la signora, semplicemente questo: con la nostra tessera sanitaria, come oggi andiamo in farmacia e possiamo dedurre dalle tasse quello che acquistiamo, con la stessa tessera sanitaria potremmo dedurre tutto quanto, anche una caramella, il caffè al bar. Io presento la tessera, viene vistata la mia tessera sanitaria e poi pago in contanti, con la carta, come stop, voglio. Stop, questo lo so, il contrasto è l'interesse di tutti, l'ho spiegato 1 milione di volte, bisogna cambiare la forma dell'IVA. L'IVA non è, a differenza di quello che si dice, un'imposta sui consumi, l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto. Però, voglio dire, detto questo, è diventato un mantra assoluto, volete dedurre tutto, tutti i contrasti di interesse. Io aggiungo, in un 2012 che spero felice per tutto, almeno all'inizio, visto che ci sentiamo ormai il 2, che voglio uno Stato in cui tutti siano meno conniventi, ma voglio uno Stato che costi di meno, per santo Dio, sarò un po' minoritario, può costare di meno, sì, ce lo insegnano gli altri, voglio che costi di meno, sì, e chissà che l'offerta politica invece che con un nuovo compromesso costituzionale non lo si debba fare, con partiti che dicano e facciano questo. Buon anno a tutti.